9 in punto, la versione di Oscar. Oh, ascoltatori, buongiorno cari ascoltatori, buon lunedì 12 di marzo, buon lunedì anche a San Massimiliano, che è festeggiato da tutti coloro che portano il suo nome ovviamente. Dunque, il nostro referendum che abbiamo tenuto aperto tutta la settimana scorsa, abbiamo per la precisione cominciato venerdì, di due settimane fa, due venerdì fa, ha fino a questo momento un esito che, come devo dire, non mi lascia molto aperto a possibilità di ribaltamento, perché per giorni e giorni e giorni migliaia e migliaia di voi, devo ringraziare tutti quanti, hanno espresso il loro parere. Però capite bene che quando 3 su 4 sono favorevoli a che rimangano i Doors in apertura e chiusura, l'esito oramai, dopo migliaia e migliaia di voti, mi sembra definito. Quindi noi lo teniamo aperto sul sito di Radio 24 ancora un po' di giorni. Hai visto mai che improvvisamente adesso, in questa settimana di marzo, si scatenino tutti gli ascoltatori che vogliono invece che cessi con Jim Morrison, di dare l'idea di essere troppo pessimisti? Ma in caso contrario, se invece non dovesse ribaltarsi, diciamo fino a mercoledì, allora a quel punto giovedì, quando faremo il bilancio davvero finale, vediamo se la percentuale di coloro che invece chiedono ogni tanto delle varianti musicali, insomma un po' meno pessimisti o magari con qualche espressione di pessimismo un po' variata, di non doverle ogni tanto accontentare. Per il momento www.radio24 .it, continuate a votare, ma i Doors ancora vanno per la maggiore. Allora, il tema di oggi sono gli studi di settore, vedremo tra pochissimo perché. Qualche aggiornamento ovviamente, come sempre facciamo, sulla flash internazionale di stampa, per spiegare come qualmente, malgrado uno spread oramai che è 250-260 punti sotto i massimi di novembre, quando si toccarono i 560 punti base, adesso siamo sotto quota 300, intorno a quota 300. Tra l'altro, attenzione che la politica italiana, naturalmente, subito appena è sceso lo spread, ha ricominciato i vecchi difetti. Adesso il governo Monti, me lo avete sentito criticare, perché io vorrei che il debito pubblico si abbattesse con stock di patrimonio pubblico e si seguisse una strada alternativa, quella delle stangate fiscali per gli avanzi primari, tagliando la spesa di molti punti di PIL e abbassando le tasse per far respirare l'economia. Detto questo, che al scendere dello spread immediatamente, appena si tocca la televisione, centrodestra riscatta con i suoi vecchi atteggiamenti la partita del padrone della televisione, del duopolio, e dall'altra parte l'intervista di D'Alema che dice adesso torniamo noi con la sinistra, arriva Hollande in Francia e anche qua faremo una bella maggioranza di sinistra, secondo me è la testimonianza che i partiti non hanno capito affatto le responsabilità che hanno dopo anni e anni e anni in cui ci hanno spinto sul ciglio del burrone. In quel burrone si fa in fretta a riavvicinarsi. Posso sbagliare, ma ci sono tutti i segni di un classico della politica italiana. I partiti si hanno fatto un passo indietro perché qualcun altro si sporcasse le mani e adesso levano subito il capo dicendo la politica torni alla sovranità, eccetera eccetera. Sì, il problema è che se la sovranità si era allontanata perché ne erano stati incapaci dell'esercizio. Questo basta che ce lo ricordiamo tutti, e occhio che nei prossimi mesi appunto l'offerta politica cambia. Ma detto questo, in Europa che succede? Succede che adesso la paura degli analisti il mercato inizia a spostarsi verso l'hard landing, l'atterraggio non più morbido della crescita cinese. Ci sono molti outlook che sono usciti in questo fine settimana intorno al fatto che, a differenza delle aspettative, perché sapete che il congresso del PCC cambia leadership in Cina quest'anno, però il problema è che molti sono i segnali dall'attivo commerciale, dall'attivo delle riserve valutarie in fortissimo calo, nei dati ufficiali, dai consumi elettrici in fortissimo calo, che fanno pensare che tutte le feste a un certo punto vadano verso la fine. Speriamo che non sia troppo vero, perché una diminuzione del tasso di crescita della Cina troppo violenta avrebbe ripercussioni mondiali veramente molto molto complicata. Nel frattempo la Grecia si prepara alle sue elezioni e è sempre in vantaggio Nea Dimokratia, cioè il partito di centrodestra, il cui leader è Antonis Samaras, e, mentre invece il candidato del PASOK è praticamente oramai in maniera indiscussa Evangelos Venizelos, cioè il ministro delle finanze, ma nei sondaggi il Partito Socialista becca solo l'11% dei voti, ed è singolare perché in realtà poi due anni fa portare la responsabilità del deficit di 15 punti di PIL, che ha fatto esplodere il problema della tenuta dell'euro, sono stati i conservatori che oggi sono in vantaggio. Ma questo è il saliscendi delle appunto elezioni europee di questi anni, in cui perde sempre chi non porta la responsabilità del guaio a cui ha dovuto dare risposta. Nel frattempo anche nel fine settimana il ministro delle finanze tedesco Wolfgang Schäuble ha criticato il governo greco. Notizie dal Belgio che deve estendere le sue misure di austerità, perché il deficit del 2012, altrimenti come quello del 2011, ma più di quello del 2011, finisce fuori percorso di convergenza con il fiscal compact. A proposito di violatori del fiscal compact, la Spagna è sempre più isolata nell'eurozona, come hanno riportato in questo fine settimana i giornali spagnoli, a cominciare dal Paese. La Commissione europea la scorsa settimana mi ha dato una missione a Madrid per tentare di capire, appurare davvero qual è la misura dei fatti, in che misura questo deficit dell'8,5% di 2 punti superiore all'attesa della Spagna rappresenta un problema aggredibile nel breve oppure no, perché abbiamo sentito che il governo spagnolo dice non ci pensiamo nemmeno per il momento di tagliare i 2 punti di deficit. In più sui giornali anche italiani trovate stamattina invece nella campagna elettorale francese le parole minacciose di Sarkozy sulla sospensione laterale di Schengen, che ieri c'erano su tutta la stampa francese, dalles Echos, Le Figaro a Le Monde. Hollande, il candidato socialista sempre in vantaggio, è stato snobbato dal premier polacco e quindi Hollande continua ad avere difficoltà di accreditamento in Europa dopo il no della, di Angela Merkel, il cancelliere tedesco. Mi fermerei a questo punto qui e andrei al punto di giornata. Oggi ci occupiamo degli studi di settore perché negli scorsi giorni una notizia ha attirato la nostra attenzione. Spesso noi torniamo su gli studi di settore, sapete, è un strumento che ha diviso in due praticamente la vastissima platea di artigiani, autonomi, professionisti che da molti anni si vedono tra virgolette commisurati agli indici di congruità di questo strumento, che da strumento attraverso il quale doveva essere definito in maniera sufficientemente ragionevolmente, certo, diciamo così, un flusso pluriennale fiscale a seconda del tipo di esercizi, di microimpresa, di studio professionale, è diventato, a seconda delle esigenze di cassa dello Stato, di anno in anno uno strumento sintetico di accertamento ai limiti dell'esecutività e spesso oltre i limiti dell'immediata esecutività, con disparate prese di posizione sia nelle sentenze delle commissioni tributarie che poi nelle sentenze apicali che fanno giurisprudenza, tanto da parte poi dei governi e dei ministri, quanto invece nella prassi dell'agenzia tributaria, insomma. E abbiamo visto in questi giorni che c'è stata una presa di posizione del vertice del presidente di Sose, il presidente di Sose, che Sose SpA è la società incaricata dal Ministero delle Finanze di elaborare e aggiornare le proiezioni in base alle quali si formulano gli studi di settore, e il presidente di Sose è un veneziano, Gianpietro Brunello. E siccome il Corriere del Veneto la settimana scorsa ha dimostrato, dati alla mano, che negli ultimi tre anni sono molto aumentate le sentenze favorevoli ai contribuenti veneti, visto che il Correa Veneto lì si vende, che avevano fatto ricorso contro lo studio di settore, tanto che oltre 2.500 imprenditori dal 2010 si erano visti riconoscere dalle commissioni tributarie del Veneto il fatto che le loro imprese avessero guadagnato meno di quanto previsto dal cervellone elettronico del Ministero. Allora Brunello ha affermato, il presidente del SOSE, che entro la fine di marzo, quindi due settimane, non oltre, si stabiliranno nuovi parametri che terranno conto della situazione economica, perché dai dati arrivati, queste le sue parole, è praticamente certo che per tutte le tipologie di imprese gli studi di settore verranno rivisti al ribasso, per alcuni inevitabilmente più che per altri, perché il problema è naturalmente quello degli andamenti rispetto alle crisi, delle polemiche che si sono scatenate in questi anni ricorrentemente per il fatto che gli studi di settore non tenessero conto di andamenti di contrazione forti e talora fortissimi, soprattutto per coloro che lavorano sulla domanda interna, quindi sono meno esposti alla elasticità della domanda estera, nei confronti della quale l'Italia è tornata a fare un export il cui valore è pari a quello del pre-crisi, sia pure in presenza di volumi molto più contenuti. Ma la domanda interna è flat, è statica se non negativa da molti anni, e quindi su questo ci sono state polemiche ricorrenti. Faccio notare che in realtà sugli studi di settore da anni pressoché ogni decreto tributario ha avuto correzioni, annunci di correzioni e cose di questo genere, e esattamente avvenuto anche con il recentissimo decreto di semplificazione, cosiddetto di semplificazione fiscale, che è stato approvato nei giorni scorsi, e con il decreto di semplificazione fiscale si è stabilito che l'accertamento diventa induttivo solo se l'errore è irrilevante, quindi i controlli arriveranno per scostamenti oltre il 15% e con una soglia quantitativa di 50.000 euro, con un'alternativa tra i 50.000 euro o il 15%, e superando tale soglia viene quindi legittimato l'accertamento induttivo. Ma sempre con lo stesso decreto lo Stato ha disposto l'ennesima proroga, la proroga questa volta al 30 aprile del 2012 per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e questo è stato il nuovo termine entro cui apportare integrazioni agli studi, al fine appunto di tenere conto degli andamenti economici e dei mercati, nonché per aggiornare gli indicatori di coerenza e normalità economica. Quindi vedremo se il presidente del SOSE Brunello ha ragione a dirci entro fine mese, oppure fatto sta che nel decreto appena approvato si dice che entro fine aprile noi dobbiamo arrivare esattamente a quanto era stato in questi anni vanamente promesso. Allora, per discuterne abbiamo con noi il presidente della Confartigianato Veneto, Giuseppe Sbalchiero. Buongiorno e grazie presidente. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. È il nostro consueto faro di civiltà, oltre che di diritto, nel senso che insegna diritto tributario, ma è un faro di civiltà e di misura nella controversia tra Stato assetato e contribuenti talvolta esasperati, talaltra un po' furbi, e cioè Raffaello Lupi, che insegna diritto tributario a giurisprudenza all'Università di Roma Tor Vergata. Buongiorno professore. Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori. Sbalchiero, cominciamo con lei. Contento di queste precisazioni del presidente del SOSE? Ci siamo, abbiamo vinto, non abbiamo vinto, fidarsi, non fidarsi, che dice? Ma io ho già fatto una prima dichiarazione quando è arrivata questa notizia, e la notizia intendeva dire: per i contribuenti che hanno i settori in difficoltà diminuiamo gli studi di settore, per i contribuenti che invece hanno le imprese, ovviamente hanno export, aumentano i fatturati, aumenteremo gli studi di settore. E l'ho definita una pagliacciata, perché inevitabilmente il momento in cui siamo tutti tiratissimi e stiamo tentando faticosamente di mantenere la nostra forza lavoro a costo di sacrifici importantissimi, sentire qualcuno che ci dice togliamo di qua per mettere di là mi sembra veramente un'ulteriore presa per i fondelli. era o cominciamo a stabilire che chi dichiara lo Stato garantisce che è corretto o non è corretto lo Stato nel senso di chi deve fare il controllo, non noi. Oppure se continuiamo a giocare, questa, spostiamo le imposte da una parte, le togliamo dall'altra, non ne usciremo mai. E un minimo di certezza noi operatori lo dobbiamo avere. Allora, sono queste, benissimo, applichiamole. Gli studi di settore è stato un accordo fatto fra associazioni di categoria e il Ministero, sono stati tarati in una certa maniera, non si può continuamente alzare e abbassare l'asticella a seconda la necessità di chi da incamerare, perché vuol dire non avere rispetto ma soprattutto non avere fiducia. Sbalchiero, al di là del tono formale di apertura e di riconoscimento che esiste un problema rispetto agli andamenti della crisi, poi nelle repliche che sono venute sul Corriere del Veneto, che aveva fatto l'indagine esattamente sui numeri delle sentenze delle commissioni tributarie, l'agenzia e anche la SOSE, insomma l'agenzia delle entrate, c'è andata, insomma non mi è sembrata così conciliante. Perché? Vediamo alcuni di questi dati per riflettere insieme a lei e poi chiedere il commento al professor Lupi. È vero che la distanza tra gli studi di settore e i reali introiti degli autonomi, dei commercianti, dei professionisti, degli artigiani sembra cresciuta per il fatto che ci sono stati appunto più ricorsi, e quando si dice più ricorsi si dice che nell'ambito di 2 anni sono aumentati tra il 25 e il 30% nel sono Veneto. Però si difende l'apparato dello Stato dicendo che in secondo grado le vittorie dei contribuenti non è che siano poi aumentate negli anni, perché anzi le evasioni accertate dall'agenzia e confermate dalle commissioni provinciali sono cresciute, visto che il recupero nel secondo grado della magistratura tributaria è passato in 3 anni da 150 milioni a più di 300 milioni. Quindi la tesi dello Stato è che con la crisi l'evasione non è affatto diminuita. E ha continuato poi in aggiunta l'agenzia a rilevare anche in quel caso di sentenze che sono parzialmente favorevoli ai ricorrenti, cioè quelle che ridimensionano le pretese iniziali dell'agenzia delle entrate elaborate in base agli studi di settore, però anche quelle che ridimensionano le richieste iniziali tuttavia accertano un'evasione che non è proprio così, così secondaria, come a dire che la litigiosità delle categorie, dei soggetti interessati agli studi di settore è un pochino pretestuosa, per così dire. Ecco, di fronte a queste cifre, a questa reazione che ha avuto l'Agenzia dell'Entrata, quindi al di là della dichiarazione del Presidente del SOSE, finta disponibilità ma di fatto pugno di ferro, la sua reazione qual è? Da parte nostra la reazione è questa: se noi con SOSE, quindi con Brunello, andiamo a determinare, visto che gli studi di settore sono stati fatti assieme, determinati parametri, e tu questi parametri me li continui a spostare, c'è qualcosa che non funziona. Allora, se siamo a livello uguale, allora va benissimo anche tutto il contenzioso, va benissimo anche il confronto, più che il contenzioso il confronto. Tant'è che credo in Veneto siamo stati i primi a firmare un accordo con Equitalia, che è la fase subito successiva, per dire un momento, trattiamoci, vediamoci, non mettiamo le aziende nelle condizioni di dover chiudere perché non c'è la disponibilità di avere credito e magari anche dallo Stato, perché oggi si fallisce anche per crediti verso lo Stato. Allora, su queste partite qua, i furbetti del quartierino siamo i primi a condannarli, tant'è che abbiamo detto che come associazioni non aiuteremo chi troviamo veramente che fa il furbo, ma per tutti gli altri, quelli che stanno lavorando, che stanno crescendo e che vogliono pagare quello che deve essere pagato, questo non lo accettiamo. L'importante è ragionare in termini omogenei fra noi e voi, altrimenti eliminiamo questo patto che è stato fatto, voi fate il vostro lavoro, noi facciamo il nostro. Allora, nel frattempo, informazioni di servizio, ricordo a tutti voi, credo che gli interessati lo sappiano, sottoposti ai studi di settore, che comunque il 1° aprile, quindi tra 2 settimane, scade la sanatoria che ha consentito di chiudere tutte le pratiche al di sotto dei 20.000 euro di contestazione del 2011. E attenzione, perché dal 2 aprile cambia anche il regime dei ricorsi, perché sotto i 20.000 euro di contestato non è più necessario rivolgersi ai giudici delle commissioni tributarie, basta semplicemente chiarire la posizione direttamente con l'Agenzia delle Entrate. Non è detto che sia più facile, che si rischi di meno. Allora, professor Lupi, che dice di questo caso, diciamo, evento, la dichiarazione del presidente del SOS da una parte, dall'altra l'Agenzia delle Entrate che dice ma veramente sì, e soprattutto in questi anni le promesse della correzione al ribasso è stata una continua dilazione, perché l'Agenzia delle Entrate poi non si è molto convinta davvero che gli andamenti degli studi non fotografassero quello che succedeva con la crisi, cioè non meno evasione. Lei che dice? Io dico che ho i brividi per la schiena, perché è possibile che non riusciamo a stimare i redditi, i ricavi dei pasticceri e dei fornai e ci abbiamo bisogno del cervellone della Sose che fa le reti neurali. Non so quanti ascoltatori sanno cos'è la regressione lineare multipla che fare gli studi di settore, cioè la perdita di controllo del territorio è talmente forte che noi, per vedere quanto guadagna un pasticcere, e io ce l'ho sempre coi pasticceri non perché sono cattivi ma perché rappresentano una area abbastanza rigida come tipologia, dobbiamo passare per Roma dal cervellone della Sose? Possibile che, cioè, se noi diciamo una cosa del genere in Germania, dove abbiamo visto nell'altra puntata che gli autonomi si comportano esattamente nello stesso modo dei nostri, però per fortuna son di meno, per fortuna o per sfortuna son di meno, cioè è il tentativo di amministrare per le, cioè un ufficio imposte francese si prende carico di 300-400 autonomi della sua zona, esce dalla scrivania, passeggia, guarda la vetrina, guarda la dichiarazione dei redditi e si fa un'idea e parla con il commerciante. Ma non è che ci vuole un master in diritto tributario all'Università di Berkeley per riflettere su ste cose. L'idea che si debba amministrare per legge con gli studi di settore, che non è che vanno buttati, vanno benissimo come punto di partenza, ma poi alzati e cammina, vai a vedere l'attività, fai una stima, cioè non si può portare la tassazione attraverso le aziende, dove le aziende sono quelle organizzate, sono quelle con tanta gente, non gli autonomi con la commessa. Sono le 40.000 che lei ci ricorda sempre da cui sono si fa. Sono le 40.000, bravo, sono 40.000 abbastanza organizzate, che poi probabilmente 30 rubano pure loro per il padrone, ma rubano poco di tanto, mentre abbiamo gli autonomi che ovviamente, siccome nessuno gli va a chiedere niente, non è che puoi tassare il pasticcere con la gazzetta ufficiale, ci vuole uno che va lì e gli dice scusa, ma quest'anno hai dichiarato un po' poco, vediamo, cerchiamo di aggiustare, e quelli, siccome non li puoi tassare con la gazzetta ufficiale, non gli puoi chiedere le imposte con la gazzetta ufficiale, perché loro già, se va bene, leggono la Gazzetta dello Sport, figuriamoci, e quindi ci vuole qualcuno che vada lì a stimare, ma non a contargli i bignè o i chili di zucchero, a chiedersi quanto può guadagnare una pasticceria in questa posizione. Non è che lo possiamo chiedere alla Sose, che fa a 300 km di distanza una regressione lineare multipla, dove ci mette sia la pasticceria sfigata, sia quella che va benissimo, che stanno magari a 100 metri di distanza, non lo vede il cervellone. Questo sfasamento fra le due pasticcerie, che le vediamo tutte adesso in questo periodo di crisi, c'è qualcuno che sta facendo la fame, tu ci passi davanti e entreresti a comprargli qualche cosa, quando ti dicono delle volte con la serve altro, cioè ti fanno pena, e magari c'è un altro accanto che è intelligente, è fortunato, che gli affari gli vanno a gonfie vele, il cervellone della Sose, queste differenze non le vede. Esattamente, allora ci fermiamo adesso per la pubblicità. Allora, alcuni hanno chiesto ancora chiarimenti sulle correzioni introdotte dal decreto semplificazione in merito alle indagini induttive in caso di errata compilazione. Guardate che questa è una materia, io la ripeto, ma che è cambiata tre volte nell'arco delle ultime 6 settimane, tre volte, questo per dare sempre l'idea della grande civiltà di questa officina della luce, che è la produzione di diritto tributario nel nostro paese. Opacità, tetraggine, la notte più atra, quella in cui si commettono i più atroci delitti. Perché? Perché nel decreto Salva Italia, cioè quello della manovra fiscale di dicembre del governo Monti, si eliminò del tutto la copertura degli accertamenti analitico-induttivi fino al 40% dei ricavi dichiarati se si risultava congruo e coerente nell'anno e congruo in quello precedente. Cosa vuol dire? Attenzione, l'accertamento analitico-induttivo è quello che il nostro ordinamento dovrebbe riservare e riserva alle violazioni gravi, e a quel punto la rettifica è fatta dagli uffici, cioè basata su meri indizi, e non su presunzioni semplici, su meri indizi di gravità, precisione e concordanza, e a quel punto parte l'accertamento automatico induttivo. E con il Salva Italia si fece quello. Poi con il successivo decreto quello di inizio febbraio si stabilì che se il contribuente risultava nell'anno in linea con i risultati di studi di settore, nei suoi confronti erano inibiti del tutto, questa volta del tutto, gli accertamenti di tipo analitico induttivo, e sempre che il contribuente risultasse congruo e coerente veniva previsto che i termini di decadenza degli accertamenti venivano anticipati di un anno, e quindi per effettuare l'accertamento sintetico ci voleva uno scostamento di almeno un terzo in luogo di un quinto. Allora era quindi una norma più di garanzia, però il diavolo è nei particolari. Nel decreto di febbraio si aggiunse che la condizione in più prevista per questo era che il contribuente indicasse fedelmente i dati degli studi di settore nel modello. Allora, qual era questa nuova precisazione di fatto? Esattamente opposta rispetto alla volontà di essere garantista. Di fatto quello che succedeva era che veniva equiparato un mero errore nel modello degli studi a un comportamento doloso, e quindi per mero errore ripartiva a quel punto l'accertamento induttivo. Per questo si è arrivata alla terza correzione. Questa terza correzione è quella, cioè, che legittima un accertamento induttivo puro quando il contribuente omette il modello di studio e lo compila regolarmente, a condizione però che il maggior reddito accertato per effetto della correzione applicata dagli studi superi il 15% o i 50.000 euro indicato. Voi capite che in questa sarabanda di tre correzioni nell'arco di 6 settimane è un po' difficile per tutti coloro che poi ogni tanto devono anche lavorare, non solo seguire le variazioni umorali del legislatore in questa materia, andare dietro a tutto questo. Ovviamente i professionisti dell'interpretazione geroglifica del diritto tributario servono proprio per questo. Sentiamo come la pensa qualcuno di voi, abbiamo telefonate, cominciamo con Valentino da Treviso, prego Valentino. Buongiorno Giannino, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Niente, volevo soltanto fare una piccola precisazione, così che per esempio io faccio parte del settore del mobile, settore tra l'altro in gravissima crisi, e mi viene contestato per 2 anni consecutivi la non congruità per quanto riguarda appunto il quanto prendo a livello provvigionale. Loro dicono che io dovrei prendere l'8% quando tutti i contratti, e anche chi è nel settore del mobile sa benissimo che i nostri contratti viaggiano dal 4 al 6%, massimo l'8% su alcuni casi per chi tratta di imbottito o cose del genere, diciamo, no? Ecco, io vorrei sapere con chi hanno concordato, visto che si sa benissimo che nel mondo del mobile quella è la percentuale di provvigioni che si prendono, insomma, ecco, in linea di massima per quanto riguarda il settore del mobile. Così, io chiarissima questione. Sentiamo subito Giuseppe Sbalchiero che commenta. Beh, innanzitutto dire che si continua a cambiare le regole del gioco mette a proprio agio il contribuente, anche perché poi se andiamo dai professionisti non tutti usano lo stesso parametro e danno anche opinioni diverse, quindi siamo al massimo. E lo studio del settore è stato fatto negli anni 90 proprio perché ogni anno usciva il libro bianco, il libro rosso, il libro verde dei ovviamente evasori, i soliti noti, e siamo sempre noi. C'è un problema di fondo che diceva il professore, che condivido perfettamente, che non può essere paragonato l'azienda che vive in alta montagna con quella che vive in piena città e che ha anche maggiori possibilità. Ma l'aspetto principale è questo, per gli autonomi, e dopo andiamo al resto. La prima cosa che fai quando vai su una famiglia a lavorare, famiglia o qualsiasi altra cosa, ti dicono: io la l'IVA non la voglio pagare. Questa me la sto sentendo continuamente dappertutto. Quindi o cambia la mentalità anche del contribuente finale e quindi comincia a essere lui stesso contribuente, e siamo tutti noi italiani, oppure difficilmente si riuscirà a trovare una soluzione. Secondo, quello che diceva l'artigiano va benissimo, perché negli studi di settore noi abbiamo concordato alcuni parametri fra categorie economiche e SOSE e Brunello. Questi dati, questi parametri continuano a essere modificati, nonostante noi siamo lì, partecipi, cerchiamo di convincere della bontà delle operazioni, e ovviamente quello che si va a determinare è la media, e la media dei settori italiani. Laddove ci sono discrasie importanti fa bene fare l'accertamento all'Agenzia delle Entrate, ma la deve fare subito. Ultima questione, lei prima diceva che è sufficiente un errore formale. Guardi che per un errore formale io stesso mi sono trovato con una convocazione di natura penale. Penale. E allora dico, se questo è lo Stato con cui mi devo confrontare, è meglio che chiuda l'azienda, perché questo Stato è incapace di intendere e di volere. Eh sì, naturalmente è lo Stato che pone a propria tutela queste norme di assoluta cogenza, poi è lo Stato che il proprio debito commerciale non lo paga per mesi, per anni, anzitutto, anzi lo disconosce, non lo rende neanche scontabile in banca. Un rimborso ILOR dal 1986, appunto. E uno dell'85 è arrivato l'anno scorso. Anch'io come contribuente per le mie piccole società ne so qualche cosa. Sentiamo Cesare da Napoli, prego Cesare. Buongiorno dottor Giannino, buongiorno agli ascoltatori. Io volevo porre un problema generale a proposito dell'applicabilità degli studi di settore a quelle società di capitali che sono non tanto piccole da non essere soggetti alla contabilità ordinaria e non tanto grandi da essere esonerati dall'applicabilità degli studi di settore. In altre parole, a mio parere, se si ritiene che le risultanze astratte e virtuali degli studi di settore debbano prevalere sulla contabilità ordinaria anche quando questa non venga disattesa, allora è inutile costringere il contribuente a tenere una contabilità ordinaria, che significa oneri elevatissimi in termini di consulenze, di personale, di adempimenti vari. Quindi delle due l'una: o lo Stato mi viene a contestare le risultanze della contabilità ordinaria quando non coincidono con quelle degli studi settore, oppure si deve esonerare il contribuente o la società che soggetta alla contabilità ordinaria dall'applicazione degli studi di settore, salvo che non venga contestata precisamente l'attendibilità della contabilità stessa. Allora, giriamo subito questa questione al professor Lupi insieme alla considerazione sull'intervento rapido di Lorenzo da Venezia, l'ultima chiamata di oggi. Sì. Prego Lorenzo. Sì, buongiorno. Il mio intervento è stato un po' anticipato, cioè quello che trovo aberrante è il valore di prova giuridica dato allo studio di settore. Questo dovrebbe essere al massimo un indizio, è una mostruosità giuridica dare valore di prova a una cosa induttiva. Se andate a vedere la dichiarazione dei redditi, modulo studi di settore, in piccolo, in basso, ci chiedevano di firmare che riconoscevamo che lo Stato ha comunque ragione. È solo un infame che ci consiglia dei sudditi che può fare le cose del genere. E la sala di categoria non dovevano cedere su una questione di principio. Lo dice qualcuno che è sempre stato congruo, ma non accetta di essere trattato da suddito, da uno Stato, come dice lei, ladro, nel come lo prende, nel quanto lo prende e nel come li spende. Grazie. Grazie Lorenzo, ora abbiamo le strade e subito dopo la parola a Lupi. E me lo consentite di sciogliere un inno alla Svizzera, un inno agli elettori svizzeri che nel referendum rispiegano respingono col 66,5% la proposta di dare 6 e non 4 settimane di vacanze agli svizzeri. Ma averli elettori così, averli, io pagherei di tasca mia. Voi capite bene, i partiti, le associazioni di sinistra, giovanili, eccetera, hanno detto: certi del successo, votiamo più vacanze per tutti. E gli svizzeri al 66,5% hanno detto: come più vacanze per tutti? E poi chi paga? Uè, ragazzi, la produttività, quello è un paese serio, ha resistito agli imperi, ha fatto una piccola guerra civile a metà dell'Ottocento regolando le questioni religiose nei cantoni e diventando laico, conta davvero la gente dal basso, perché si vota e non c'è questione fiscale come da noi, sottratta ai referendum per costituzione come se fossimo degli imbecilli. Si vota e incredibilmente la gente respinge chi propone più vacanze perché dice costano. Che paese, ragazzi. Professor Lupi, che ci dice dopo le ultime osservazioni di chi dice ma come che noi dobbiamo essere alcuni in una fascia intermedia non così stretta, costretti sia alla contabilità ordinaria e costretti sia poi agli elementi induttivi degli studi di settore? Che senso ha un ordinamento così? Allora, il primo ascoltatore che faceva il rappresentante di commercio ha detto una cosa sacrosanta, cioè quello è già tassato dalle aziende, cioè quello dovrebbe stare fuori dagli studi di settore, perché lui viene tassato alla fonte, segnalato al fisco dai suoi clienti produttori di mobili, esattamente come un lavoratore dipendente. Quindi gli studi di settore lì, ma quella è una cosa veramente grottesca che si facciano gli studi di settore su quelli autonomi formalmente, ma che hanno come unica fonte di entrata la provvigione, oppure come se facessero lo studio di settore a un avvocato che lavora solo per una banca. Certo. La contabilità è più complesso, perché effettivamente delle società che producono, immaginiamo mobili, e fatturano 4 milioni, magari qualche mobile in nero, e nessuno riuscirà a provare analiticamente la vendita in nero di un mobile. Cioè i nostri cari telespettatori devono, ascoltatori, devono rendersi conto che la tassazione è sempre avvenuta in base a presunzioni dai tempi di Adamo ed Eva. Cioè quando sento dire ah no, gli indizi, mamma mia, perché la tassazione è in base agli indizi. Solo quando io chiedo agli uffici di ragioneria delle aziende di prendere loro le imposte, allora loro vanno con la contabilità, ma il funzionario del fisco deve andare necessariamente a occhio. Quindi non è che si tratta di fare una lotta per le presunzioni o contro le presunzioni, vogliamo delle presunzioni convincenti. Una cosa è dire tu fai il pasticcere quindi tot, e me lo dice il cervellone della SOSE, una cosa è andare lì e cercare di rendersi conto quant'è lo smercio, quant'è la clientela che va in pasticceria. Quindi gli studi di settore, se ci stanno per il barista in forma individuale con 3 dipendenti, ci devono stare pure per la società che gestisce il bar con 3 dipendenti. Cioè è una distinzione formale quella. Certo, la contabilità, ha ragione il telespettatore, l'ascoltatore, andrebbe abolita per tutte queste attività di lavoro. La contabilità del gelataio non ha senso. Senta, la interrompo un secondo perché 20 secondi a testa chiedo, prima Sbalchiero e poi a lei, che pensate del bollino blu fuori i negozi? È una cosa di civiltà quella proposta da Befera, per chi è corretto, oppure è di nuovo la stella gialla per segnalare, insomma, ci siamo capiti? Sbalchiero, che dice? Sono convinto che la seconda versione è proprio la stella gialla. Lupi, che dice? Abbiamo bisogno di... Allora, quel bollino no, è proprio scemo, perché se io non, come ragionamento, perché se io non riesco a stimare quanto guadagna il pasticcere, come faccio a dargli il bollino blu, capito? No, non funziona. Cioè, per dargli il bollino blu devo vedere quanto guadagna, ma il problema è che non riesco a determinare su larga scala quanto guadagna, mi dite come faccio a dargli il bollino blu. Allora, comunque, questa volta, cari ascoltatori, sia Sbalchiero che il professor Lupi, che nomino mio difensore, sono d'accordo con me. Il bollino blu di Befera è la dimostrazione di uno Stato ladro e mentitore. A domani.